Quarta ed ultima parte di Rock Legends. Continuiamo ad ascoltare i brani del disco degli Stone Machine dal titolo Human Regression. Come si chiamava questa canzone? Allora, questo era l'unico pezzo acustico dell'album, si chiama Listen to the Wind ed è un pezzo a cui io tengo in modo particolare perché è molto Neil Young. Come? È molto Neil Young. Sì, a parte quello che rappresenta anche molto la mia cultura musicale, però ho iniziato a scriverlo in un periodo particolare della mia vita e l'ho finito l'anno dopo, quando poi alcune cose si sono proprio completamente ribaltate e quindi rappresenta vari aspetti importanti della mia vita. Insomma. Hai ascoltato il vento? Ho ascoltato il vento. Listen to the wind vuol dire ascolta il vento, ma vuol dire anche ascolta la tua anima, cioè quindi in fondo lascia andare la tua anima dove deve andare e soprattutto lascia che viva per quello che è, insomma. Quali saranno le prossime mosse della band per il futuro? Guarda, adesso stiamo lavorando per avere una promozione adeguata al disco, perché comunque, visto che i primi segnali sono stati positivi, crediamo molto nel potenziale del nostro album, quindi cerchiamo chiaramente una promozione adeguata e poi si spera tanti tanti live e quindi di poter portare il nostro disco in più città possibili e farlo ascoltare a più gente possibile. Come tutte le band devono suonare, esatto. Certo. Per essere vive. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far ascoltare? Il quinto brano è Shut Up. We'll be right back. Il tempo come sempre scorre, siamo in chiusura di puntata. A voi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email gianluca76m@yahoo.it, ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio in streaming attraverso i vari player. Un grazie agli Stone Machine per la partecipazione, buona fortuna per il vostro album, e a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco in un calendario di live già definiti. Innanzitutto grazie a te Jean-Luc di ospitarci qua. Grazie mille. Da parte di tutti Stone Machine ricordiamo agli ascoltatori che possono trovarci sul web su www.myspace.com/stonemachine. Ci trovano su Facebook cercando Stone Machine. Ovviamente non Facebook. E la nostra mail è info@stonemachine.com. Se volete comprare il disco lo trovate su iTunes o lo trovate nel nostro MySpace, nel nostro Facebook, oppure lo trovate ai nostri concerti. I prossimi live dovremo suonare quasi definitivamente il 25 di aprile al Maximum Festival vicino a Treviso, e le prossime date le saranno definite nei prossimi mesi. Sicuramente saremo in tour quest'estate, quindi tenete sotto controllo il web. Brano per chiudere questa serata? Allora, questo è l'ultimo pezzo del disco e che racchiude praticamente tutto il concetto dell'album e si chiama appunto Human Regression. Jean-Luc e gli Stone Machine vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao!